Di Elizabeth Gaskell abbiamo già parlato presentando la lettura di Ruth e di Lois la strega. Lascio in descrizione il link a entrambe le presentazioni per chi volesse conoscere la vita di questa straordinaria donna e autrice ottocentesca inglese. Ma Moglie e figlie, il suo ultimo romanzo, rimasto incompiuto a causa della sua morte e terminato da chi non ha fatto altro che scrivere la naturale conclusione dell'intreccio, ha qualcosa di diverso, qualcosa in più. È una sorta di trattato di psicologia familiare e generazionale, descritto con l'empatia e la gentile compassione femminile che contraddistingue tutta l'opera di Elizabeth. Questa donna dolce e materna, che aveva iniziato a scrivere in seguito alla morte del figlioletto, come accaduto ad altre meravigliose antenate, ha fatto della compassione la sua lente d'indagine. La troviamo in Ruth, dove l'empatia avvolge e riscatta la giovane sedotta, anziché condannarla secondo le regole del buon costume vittoriano. La troviamo in Vita di Charlotte Bronte, dove la grande scrittrice inglese ci viene raccontata nella sua umanità e infelicità domestica. La troviamo in Lois la strega, dove Elizabeth scava con eccezionale acume psicologico nella follia della caccia alle streghe di Salem in America, avendo un occhio compassionevole anche per la terrorizzata popolazione. Così anche in quest'ultima sua opera, la sua compassione e gentilezza materna risolvono tutti i conflitti, riscattano tutte le debolezze e arrivano a sciogliere perfino collisioni ataviche come quella tra l'Inghilterra e la Francia. Sembra che Elizabeth, presentendo che stava per lasciare il corpo, abbia voluto lasciare un testamento spirituale di pace e armonica convivenza degli opposti, una lezione di vita per noi in questi tempi di incitamento alla divisione e all'odio più che mai utile. Cito i seguenti brani dall'introduzione all'edizione Jo March scritta da Marisa Sestito. Scrive: L'esclusione della figura materna dal titolo risulta singolare, infatti il titolo è Mogli e figlie e non contempla la parola madri, sia per la rilevanza delle madri nel romanzo, sia per l'importanza che la maternità riveste per l'autrice, lei stessa madre attenta e amorevole di quattro figlie. Tema, tra l'altro, che in quegli anni la coinvolge e che vorrebbe trattare in un racconto se non fosse per il supposto disinteresse del suo editore, George Smith, a cui scrive nel settembre del 1863, riferendosi a una storia, Two Mothers, due madri, che dice di aver ben chiara in mente e di cui noi purtroppo siamo all'oscuro. Accantonato il progetto, Mogli e figlie ne prende il posto, ma riflettendo sul peso che le madri hanno nel romanzo, curiosamente due madri in particolare, ci si chiede se non siano loro le eredi del racconto non scritto. Claire, vedova Kirkpatrick, è una madre assente, disinteressata e superficiale, piena di finta amorevolezza esibita agli occhi del mondo nei confronti di figlia e figliastra, ma al di là della superficie, il suo rifiuto della maternità è netto. Il suo sforzo costante nel mettere quanta più distanza possibile tra sé e la figlia, quando è bambina, per poter disporre liberamente del suo tempo e di relazioni sociali gratificanti, quando è ragazza, per non essere messa in ombra dal suo fascino. All'estremo opposto è Hamley, madre di due figli maschi, troppo presente e troppo parziale al contrario, affettuosa ma senza particolare trasporto nei confronti del figlio minore, da cui nessuno si aspetta granché, concentra l'amore e attenzione sul primogenito da cui ognuno si aspetta di tutto, dal successo accademico al matrimonio prestigioso. Il condizionamento della madre agisce fin dalla nascita, quando simbolicamente imprime al figlio il suo marchio, attribuendogli il nome di battesimo, Osborne, che è il suo cognome da nubile, non, come da tradizione, il nome legato alla linea paterna. Specularmente interessante questo, anche Claire, l'altra madre, marchia, tra virgolette, la figlia imprimendole un nome che dal suo deriva, ma a rovescio. Cynthia è infatti il rovesciamento di Hyacinth, anche se qui non è l'amore a determinare la scelta, bensì la ricerca artificiosa di un segno di distinzione. L'impianto che Elizabeth Gaskell costruisce crea aspettative di rivalità e conflitto. Viene naturale pensarlo in relazione alle coppie delle sorellastre e dei fratelli, fortemente diversificate per formazioni e attitudini. Naturale è immaginare che la scrittrice sfrutti la gelosia, passione quanto mai fruttuosa ai fini di effetti drammatici e melodrammatici e delle vendite del libro. L'ostilità interna alla coppia femminile sembrerebbe una conseguenza ovvia della diversità dei personaggi. E quale terreno più fertile per lo scatenamento della rivalità del legame affettivo tra Cynthia e Roger Hamley, apparentemente destinato a Molly? Anche più forte dovrebbe essere la rivalità tra i fratelli in un'ipotetica rivisitazione dell'archetipo di Caino e Abele. Ma nonostante lo scandaglio impietoso sondi l'istituzione familiare ne metta a nudo carenze a volte devastanti, Elizabeth Gaskell delude le aspettative ed evita lo scontro, salva la famiglia e salva anche le diversità culturali, allargando la prospettiva oltre i confini della nazione. Tacitata la collisione intorno a cui si snodavano le storie di un tempo, scomparso il conflitto di segmenti sociali interni alla realtà inglese, come i padroni operai del suo romanzo Nord e Sud, ora lo spazio si dilata e l'Inghilterra tutta si confronta con la Francia, riprendendo, si direbbe, giudizi e pregiudizi a cui spesso il romanzo ottocentesco ha dato accoglienza, e l'allusione a Charlotte Bronte e a Jane Eyre sembra confermarlo. Se la governante gascheliana, Miss Eyre, eredita il nome della governante che l'ha preceduta, sembrerebbe naturale anche la condivisione del pensiero, la critica cioè ai gusti e ai metodi educativi francesi, ma così non è, poiché i due sistemi culturali apparentemente opposti si avvicinano, intersecandosi, grazie a reti di corrispondenze e alleanze spesso inattese che contrastano condanna e rifiuto, come se potenziali inimicizie venissero erette per poter essere smontate in nome di solidarietà e pacificazione. I colori di mogli e figlie ritraggono la fine dei conflitti in tinte pastello. Il finale del suo ultimo racconto, Elizabeth Gaskell lo riserva per sé, chiudendo dove ha iniziato. La memoria la riporta alla giovinezza e a quel lontano dolore, la morte del figlio, che l'ha spinta a scrivere. Posando la penna per l'ultima volta, Elizabeth chiede alla scrittura di conservare l'ombra di un'illusione, perché anche il bimbo del romanzo si ammala di scarlattina, ma questo piccolo non muore e guarisce. La scuola delle donne è lietissima di proporre di Elizabeth Gaskell Moglie e figlie, Jo March Edizioni, traduzione di Mara Barbimi, legge Giorgia, figlia di Lidia. Da Devana, figlia di Liliana, buon ascolto.